Porti gli spuntini durante le tue prestazioni o no? Ti No, nel nascondi corpo no, gel ma dentro le mutande? Che cosa fai? Ma no, dentro le mutande. Va bene, Vabbè. chiedo. Vogliamo poi Sì. parlare anche della patata, vero? Sì. Io me ne Mi posso, me fermo ne qua. vado, vi Ma saluto. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile e si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Popliteo, happy birthday to you. E allora, eccoci qua. È un compleanno indimenticabile per Marco Loconte, 50 anni, non sentirli, almeno lui non se li sente, ma guarda che anzi senti che festeggiamento con sì. Giacomo e Giovanni del magnifico trio con gli auguri in diretta. Gliel'abbiamo fatti ieri, tu pensa che il nostro Marco ha la stessa età dello scarabeo? Che è l'antenato di Razzle. Eh già, lo storico gioco di parole compie quest'anno il mezzo secolo. Chissà quanti ascoltatori scarabeo ci sono all'ascolto in questo momento, festeggiamo anche loro perché diciamo oggi i cinquantenni non sono più quelli di una volta, sono diversamente giovani o come ha scritto Marco Loconte sulla sua maglietta sono diciottenni con 32 anni di esperienza. E ti ricordi, Deborah, fino a qualche anno fa si diceva, c'è stato anche un libro, La vita comincia a 40 anni, oggi possiamo assolutamente dire che la vita comincia a Bene. 50 allora anni. Allora io sono nella piena adolescenza. Qua in studio con noi la dottoressa Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO, 50 anni non li ha? No, però perché? Secondo me lì inizia il meglio della vita. Dai, perché? Perché non lo so, io mi sento così. Allora, 50 anni, 800 24 00 24... Se siete scarabei, o se state andando verso gli Anta, o se gli Anta li avete superati, o se li avete superate più volte, raccontateci come siete cambiati, cosa ci avete guadagnato, che cosa avete perso e soprattutto su che cosa volete investire. Ma Nicoletta, io ne ho un altro. 40 anni, sai Bene, chi ce li ha? Un quarantenne? Sì, il telefonino. 40 anni fa Martin Cooper, un ingegnere della Motorola, fece a New York la prima telefonata della storia da un prototipo di cellulare, più o meno il modello che usi tu adesso. È vero, io sul telefonino sono un po' indietro, però mi trovo benissimo. Ma col bancomat, cara Deborah, io sì. sono molto Strisci, avanti. Che è una bellezza. Vado, leggera, striscio. Fai bene, perché in questo modo combatti l'evasione fiscale, perché poi la moneta elettronica è giovane, vero Nicola Borsi? Sì, la moneta elettronica è abbastanza giovane, diciamo che una trentina d'anni non sono un'età molto vetusta per questo strumento di pagamento. Quindi 30 anni, un anniversario giovane, che si sì. celebra in questi giorni. Il 23 novembre 83 la prima emissione, ma suo fratello, quello inglese, ne ha ben 47, quindi si avvicina allo scarabeo. Alla mia età. Vedi? Hai visto? Uno scarabeo in itinere, diciamo, in avanzamento. E allora, prendete il vostro telefonino quarantenne e mandateci un messaggio al 349-238-6666, raccontateci se pagate con il bancomat, che cosa vi spinge ad usarlo e che cosa invece in alternativa vi frena. E dai 50 anni dello scarabeo, ai 40 del telefonino, ai 30 del bancomat, schieratevi, siete scarabeo, cellulare o carta magnetica. Oggi a Cuore Denari, come abbiamo anticipato, parliamo di fasi della vita, occasione di benessere, ma più specificamente parliamo di soglie anagrafiche e soglie economiche. Partiamo! Salva Danaio. Ho avuto un'idea. Ho avuto un'idea straordinaria. Che ti succede? Ah, è un'idea meravigliosa, sublime. Avanti, dilla. È un'idea... No, no, no, non posso dirtela. Non posso dirtela. È così bella che mi vergogno. È proprio così. Spesso le idee migliori non vengono a tavolino. È proprio la storia del bancomat... Ce lo dimostra, ce lo facciamo raccontare da chi Dai. Conosce bene questa storia? Sì, ma intanto che salutiamo il nostro sì. ospite, salutiamolo subito, arriva da lontano, questa mattina lo abbiamo sottratto ad alcuni impegni a Berlino, il dottor Sergio Moggia, direttore generale del Consorzio Bancomat, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno a voi tutti. Bene, la sentiamo benissimo. Grazie per poter partecipare a questa data. Grazie a lei. È un piacere per noi. Dottor Moggia, noi è da ieri pomeriggio che discutiamo con Deborah sui luoghi migliori, i luoghi che ispirano le idee. e l'ispirazione ce l'ha data l'inventore del Bancomat, che ha avuto proprio questa idea in un luogo che secondo me è molto ispirante. Dottor Moggia, sì, se la sente? Migliore non lo so. Ecco, ce lo vuole raccontare? Allora, Sì, si narra, insomma, adesso quanto sia storia o leggenda non si sa, ma che questo Sir John Stephen Barron nel 1965, comunque intorno alla metà degli anni 60, mentre appunto in una notte probabilmente uggiosa si trovava in bagno, pensò che doveva studiare un sistema per eliminare le code agli sportelli bancari. E pensa che ti ripensa, riuscì a ingegnarsi per trovare una soluzione attraverso uno strumento, una macchina, un terminale, oggi lo chiameremo comunemente, che distribuiva continuamente, o che poteva distribuire continuamente 24 ore su 24 denaro. E quindi nel 1967, in una località remota del nord londinese, fu installato il primo ATM, perché di ATM si parla, cioè di macchina distributore di denaro, acronimo di Automated Teller Machine. Quindi quando parliamo del compleanno del Bancomat parliamo esattamente della macchina che distribuisce il denaro, non della tesserina magnetica, diciamo così, dottor Moggia? Allora, sì, allora facciamo una distinzione. Bancomat, nel caso nostro, è il circuito, è il circuito che in qualche modo sovrintenda tutte le regole, permette l'emissione delle carte e quant'altro ancora. Comunemente, ma direi anche impropriamente, utilizzato ormai nel gergo comune nazionale, Bancomat. La macchina che mondialmente, diciamo, distribuisce contante è l'ATM, quello che viene definito terminale ATM. Poi all'interno di ogni paese ormai si è purtroppo magari in alcuni casi connotato con un nome diverso. E va bene, allora poi racconteremo naturalmente anche le modalità con cui gli italiani fanno uso di questo strumento che hanno a disposizione ormai da 30 anni in Italia, e ci sono già tanti ascoltatori che ce lo scrivono. Ma vogliamo anche chiedere, ispirandoci proprio a questa idea del Sir in una notte uggiosa è andato in bagno e gli è venuta questa idea del Bancomat, magari passava di lì, non lo so, non si sa perché nella notte uggiosa non poteva starsene a letto, invece è andato in bagno perché e era ansioso per il fatto che non poteva avere soldi a disposizione in ogni momento in cui lui ne avesse la necessità. Pensa adesso quanto starebbe in piedi il nostro Sir. Allora vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci il luogo che è per loro più ispirante. Dottoressa Luini, anche lei ha una storia da raccontarci, perché... Sì, esiste una tecnica chirurgica per il tumore al seno che si chiama ROLL e che è stata inventata allo IEO, ora si usa in tutto il mondo. Bene, fu inventata da Alberto Luini e Giovanni Paganelli al bar dello IEO. Nicola, tu dove ti ispiri? Ma io ho due luoghi di elezione, uno è il bagno anch'io, però mentre mi rado lo dico tranquillamente, e il secondo in realtà mentre lavo i piatti. Che non sono due, cioè né radersi né lavare i piatti, sono due attività assolutamente decenti. 800 24 00 24. Non abbiamo raccontato le nostre, Nicoletta, ma lo faremo. Lo faremo. Io ne ho tante, cioè, voglio dire, va bene. Intanto, dottoressa Luini, sì. 30 anni per il nostro e 47, dico bene, dottor Moggia, per il Bancomat internazionale, quello di Barclays di Londra. Quello di Barclays dal 67, quindi sono ormai 46 anni. Esatto. Ecco, 46 anni, quasi l'età del nostro Nicola. Insomma, sono delle belle età, soprattutto quella intorno ai 30 anni è quell'età magica in cui dovrebbe chiudersi questa adolescenza che comincia sempre prima e tende a non finire mai e affacciarsi finalmente all'età adulta. E direi che questa è un'età per certi versi spensierati, ma assolutamente strategica anche per gli investimenti, sia di cuore che di denari. Ovvio. È decisiva perché se si comincia a quell'età, quindi ai 30 anni, a badare a se stessi in modo sano, positivo, senza drammatizzare, ma anche in modo costruttivo, e insomma si mette via anche quel po' di salute e di serenità per il futuro. Dai 30 anni si comincia per esempio la prevenzione e dai 30 anni si ha finalmente la consapevolezza sufficiente per adottare uno stile di vita sano. Concentro un po' la telefonata e l'intervista al dottor Moggia, perché poi ci deve lasciare, poi Nicola naturalmente vengo anche da te. Dottor Moggia, stiamo dividendo i nostri ascoltatori per fasce d'età e quindi mi viene naturale chiederle anche, in relazione alla propria età anagrafica, chi usa di più il bancomat, hanno più confidenza con questo strumento i trentenni per questioni generazionali oppure i quarantenni e cinquantenni? Ci scatta una fotografia tra la platea appunto degli utilizzatori, dei fruitori del mezzo elettronico di pagamento? Sì, allora innanzitutto noi abbiamo e continuiamo a fare indagine sulla popolazione che prende una fascia tra i 18, quindi età maggiorenne, della maggiore età, e i 74 anni. All'interno di questa fascia sicuramente si collocano come maggiori utilizzatori i trentenni, ma anche i quarantenni e i cinquantenni, quindi la fascia centrale dai 30 ai 55 anni è la fascia all'interno della quale c'è più utilizzo, ci sono più possessori e la maggior parte di questi possessori utilizzano la carta. Abbiamo tra l'altro un dato, quanti ce ne sono in circolazione e poi quanti operativamente attivi? Certo, allora ci sono, diciamo che le carte in circolazione ad oggi, o meglio il dato a fine 2012, è pari a 33 milioni e mezzo di carte presenti sul territorio nazionale e ben più del 96% sono attive. Quindi vuol dire che c'è un utilizzo spinto, almeno attraverso l'utilizzo della carta comunemente definita bancomat. È benissimo, insomma, visto che ci si lamenta sempre che non se ne usano molte. Dottor Moggia, lo usano più le donne o gli uomini? Chi ha più la strisciatina facile? Allora, vi do una serie di informazioni, così. Diciamo che dal punto di vista della divisione d'utilizzo tra uomo e donna è una divisione equa. Il 53% dalle nostre indagini risulta essere, cioè la carta viene utilizzata in maggior parte dagli uomini, 53%, ma sì. 47% comunque donne, quindi siamo ampiamente bilanciati. Diciamo che purtroppo solo il 60% della popolazione utilizza la carta, perché c'è ancora una forte propensione a utilizzare il contante, soprattutto in Italia. E infatti, quindi, tra l'altro volevo anche sentire Nicola su questo punto, quale sarebbe la condizione migliore massima verso la quale potremmo tendere? Qual è, tra l'altro, che ne so, il paese dove si usa moltissimo? Io faccio sempre questo esempio, lo farò 2000 volte tutte le volte che toccheremo questo argomento. Si va negli Stati Uniti per prendere un caffè con un dollaro, si tira fuori la carta di credito e si paga senza alcun problema. E non è neanche necessario andare negli Stati Uniti, anche in altri paesi del nostro vecchio e caro continente. In Italia, anche se si va in piazza Duomo, arriva il giapponese che vuole prendersi due caffè, si tira fuori la carta di credito, sono dolori, o anche il bancomat che loro non hanno, ma chiaramente. Sì, sicuramente c'è una resistenza di tipo culturale all'utilizzo della moneta elettronica. In realtà negli ultimi tempi, per converso, è cresciuta anche una resistenza da parte degli operatori commerciali, perché molti di questi pagano delle commissioni sulle transazioni e quindi cercano di evitare transazioni di solito al di sotto di determinate soglie di importo, e anche qui torna di nuovo il concetto di soglia, perché sostengono che il loro utile sarebbe decimato, quando non addirittura azzerato, mandato in negativo dalla commissione sull'utilizzo di questo tipo di strumenti. Vorrei sentire Giuseppina, che ci chiama da Modena, e poi Michele dalla provincia di Campobasso. 800 24 00 24, ricordate anche di mandarci i vostri sms o di chiamarci per raccontarci qual è il luogo per voi illuminante, quello in cui si accende la lampadina. Giuseppina. A molti si accende nel negozio, si accende la lampadina di comprare un sacco di cose, strisciare all'infinito. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Ecco, io uso il bancomat, bancomat più della carta di credito. Sì. Però spesso mi capita, come stava dicendo il vostro esperto, che in parecchi negozi c'è la soglia minima per cui a proposito utilizzare di soglie, quindi dicono al di sotto, spendendo troppo poco paghi in contante. Dottor Moggia, sentiamo l'ABI che cosa dice il consorzio Bancomat. Insomma, questo problema ne siete pienamente consapevoli, ma va combattuto in qualche maniera. Sì, ne siamo consapevoli, lo stiamo combattendo, continuiamo a combatterlo, abbiamo anche attraverso il sito la possibilità di recuperare le informazioni che gli utenti, i cittadini possono in qualche modo portare a nostra conoscenza su casi specifici o su particolari situazioni ovviamente che si vengono a creare nella quotidianità, il limite non dovrebbe esserci, il limite non ci deve essere, non ci devono essere limiti nell'accettazione così definita della carta, quindi se la signora va in un negozio e chiede di pagare col bancomat o con un'altra carta, se vogliamo generalizzare, e il negozio ha esposto il marchio di accettazione, quindi la possibilità di permettere il pagamento con questo strumento, non può fare non problemi di soldi. Posti limiti da parte del commerciante. Tra l'altro, magari e se il si titolare, va... scusi, sì, una cosa importante, sì, certo. Il titolare non deve pagare commissioni. Ah, tra l'altro, se si va al supermercato e se si fa un acquisto di 10 euro, si paga senza in un grande centro commerciale. È il piccolo commerciante che generalmente ha più difficoltà, Nicola, vero? È evidente perché la quantità di transazioni che vengono effettuate in alcuni esercizi rispetto ad altri è enorme, quindi la differenza, dal punto di vista commissionale, a questo punto pesa veramente poco. Molti dei nostri ascoltatori ci stanno scrivendo sia per raccontarci il luogo in cui si accende la lampadina, va molto il bagno, comunque anche i boschi si attestano a un buon punto, però dottor Moggia, un ascoltatore ci scrive che chi usa il bancomat fa aumentare i prezzi dell'1% ecco. Anche a te, digli di smettere. Dottor Moggia, qui problemi inflazionistici legati alle commissioni sull'uso dello strumento elettronico di pagamento. No, beh, vale quello che accennavo prima, cioè adesso al di là di quello che è il percepito, e purtroppo su questo si può discutere penso all'infinità, però l'utilizzo della moneta elettronica, del bancomat in particolare, ripeto, non deve portare aggravi al titolare sicuramente, e non ci devono essere limiti nell'utilizzo nel momento in cui l'esercizio commerciale decide di accettare questi strumenti. Mentre quindi, Sandro ci scrive, Deborah, lo stai leggendo anche tu, perché non parlate dei rischi della carta bancomat? Ne parleremo. Truffe internet. Ne parliamo nel corso della trasmissione, ma io ritengo che siano gli stessi che si corrono andando in giro con il portafoglio in tasca o in borsa. Dottor Moggia. Sì, diciamo che forse, anzi sicuramente, andando in giro con il portafoglio e il contante, il rischio tendenzialmente è superiore. Nel caso di smarrimento, per esempio, la carta la blocco e quindi soldi. Evito che qualche... il contante, gli dico ciao ciao, banalmente. Va bene. Banalmente. Allora. Poi ci sarebbe da approfondire anche questo tema, però banalmente questo è l'esempio più... chiaro. Dottor Moggia, noi la lasciamo e continuiamo a chiacchierare di bancomat e moneta elettronica con il nostro Nicola Borzi. Buon proseguimento della sua permanenza a Berlino. Buona giornata. Grazie, a grazie presto. Torni presto. Grazie torni presto, naturalmente. E parliamo di soglie economiche oggi, ma parliamo anche di soglie anagrafiche. Dottoressa Luini, lei ci darà una mano. Vogliamo lavorare sulla prevenzione, divisa un po' in fase d'età, ma raccontare oggi quali sono i segnali che ci possono e ci devono far capire che è arrivato il momento di prenderci cura di noi, di cambiare un po' stile di vita. Noi siamo molto restii a farlo, anche perché si pensa, c'è la solita frase, Nicola, sai perché devo vivere da malato per morire da sano? Invece bastano dei piccoli cambiamenti. Ve ne voglio ricordare alcuni e vorrei commentarli con la dottoressa Luini. C'è uno studio recente condotto dai ricercatori dell'Oregon su un campione di pensati di oltre 6.000 adulti americani. Ha dimostrato che salire i gradini, raccogliere delle foglie in giardino, camminare mentre si parla al telefono col mio telefonino, quello lì di Fred Flintstone, di Vilma, il che vuol dire fare delle attività molto piccole di appena un paio di minuti, ha gli stessi benefici effetti per il nostro organismo in termini di pressione sanguigna e livello di colesterolo di una seduta completa in palestra. Assolutamente. Che dire poi di quel cambiamento che pesa poco ma rende molto, e quindi è una diminuzione di, pensate, solo 5 grammi al giorno di sale, che ha una ricaduta straordinaria. 5 grammi al giorno noi possiamo facilmente eliminarli, riducendo naturalmente il sale che aggiungiamo negli alimenti, anche nella cottura dell'acqua della pasta. Se questa idea vi gusta, io vi ricordo che sulla pagina di Cuore Denari abbiamo messo dei consigli che ha scritto per noi la dottoressa Reverso. Andate a vedere, ce ne sono 29 e vi invitiamo a scrivere il 30esimo, ma anche il 40esimo, il 50esimo, andiamo a soglie. E dottoressa Luini, questo per dire che oggi noi daremo dei consigli molto semplici, divisi per fasce d'età, soprattutto per? Sì, per cambiare un pochino lo stile di vita e stare meglio. Mi viene in mente l'uso del bancomat. Io sono una utilizzatrice assoluta di bancomat, sempre, anche perché non saprei dove andare a prendere il contante se non con il bancomat, per come lavoro io. E la decisione di usare una carta magnetica piuttosto che il contante è come decidere di salire le scale invece di usare l'ascensore, ridurre la quantità di sale sapendo che tanto il sale è già negli alimenti, per esempio sulla pasta non metti il sale, metti la spremuta di limone, chi lo sa questo? È una cosa importante, è una scelta e molto più salutare. Si tratta quindi di decidere cosa fare per se stessi quando, con un piccolo cambiamento. Ricordando che darsi un obiettivo settimanale, certo, semplice, una volta alla settimana, noi cerchiamo di modificare qualcosa, e questo è un esercizio straordinario per i nostri neuroni che vanno a trovarsi, si abbracciano, si intrecciano, moltiplicano i collegamenti. Sì, sì, la decisione settimanale, ho un obiettivo che è mediamente ambizioso, neanche tanto alto, ma so di averlo. Per esempio, domenica prossima io devo stabilire quanti passi ho fatto nella settimana in più rispetto alla settimana prima, quindi cambio qualche cosa. Bene, quello è un obiettivo che stimola i neuroni e il corpo. E l'obiettivo di oggi è rimanere con noi, perché tra poco ci sono i mercati. Eh sì, è imperdibile l'appuntamento. A tra poco con Deborah. Cuore e denari. Finocchiaro. A un marendo, chi dovresti da essere? Ma come, non mi riconosci? No. Sono Fabris. Fabris? Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra. Ma non ci provo, tu ci hai avuto un crollo. D'ottavo grado dalla scala Mercalli, però. E dai, non esagerare, sono anche passati 15 anni, Ma eppure per me sono passati 15 anni, te? Ma lo vedi come sto? Guarda che robetta. Io sto in forma smagliante, ma te? Guardali com'eri, guardali come sei. Ma marito zio. Le cene con gli ex compagni di scuola, Deborah, e questa sì, è proprio... toccata anche a me, è toccata anche a me. È una cartina, sono tutti qua. Io che... ero molto contenta, ma quelli che ho visto, insomma, non tutti erano proprio al top. Alcuni non sei riuscita a riconoscere. Mi sono sentita, non addirittura, però insomma li ho visti un po' provati. Si fa fatica. Insomma. Beh, in effetti noi che ci guardiamo tutti i giorni davanti allo specchio non ce ne rendiamo conto di quanto ragione. Cambiamo. Ci vuole un occhio esterno che ci dica, gli anni ti stanno... Guarda, non po'... parlare di Grande Fratello, perché già con questo Bancomat stamattina molti ascoltatori pensano proprio di essere osservati, tracciati, perseguitati. Dati addirittura dalle banche e dal fisco solo perché si usa la moneta elettronica. No, io non parlavo di Grande Fratello, ma parlavo di un grande esperto che è in linea con noi, il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, che ci farà toccare con mano quanto siamo cambiati. Dottore, buongiorno. Ah, pensavo ci volesse prendere le misure. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Beh, effettivamente un po' l'occhio da Grande Fratello uno se lo fa facendo questo mestiere, perché effettivamente con gli anni ci sono proprio dei segni visivi che si manifestano molto facilmente nel passaggio dagli enta, diciamo, agli anta, no? Si vede ad occhio nudo, il corpo cambia, la pancia aumenta, le spalle si curvano. Si tende ad aumentare di peso. Io devo dire che una domanda che faccio molto spesso ai miei pazienti, sì, è proprio quella di chiedere: ma quanto pesavi attorno ai 18-20 anni? E devo dire che spesso ci sono delle sorprese. Io pesavo di più, dottor Ongaro. Ci sono anche dei casi di questo tipo, infatti. Non è detto che sia sempre univoco il cambiamento in una direzione. Ci sono anche casi in cui il corpo cambia in senso opposto, ma in media possiamo dire che le persone tendono proprio a allargarsi e un po' incurvarsi, cioè a prendere chili di grasso, a perdere massa muscolare. E una delle cose che è un segnale che è molto importante, Nicoletta lo conosce bene, non perché riguardi lei nel modo più assoluto, ma perché ne abbiamo parlato spesso, è la circonferenza dell'addome. Nicoletta, il tuo addome ecco, però la possiamo stringere con le mani, praticamente. Ne abbiamo parlato molto perché è un indicatore semplice da utilizzare, basta un metro, e però è legato molto all'aumentare del rischio di alcune patologie, tra cui l'infarto, il diabete e altre. Quindi, insomma, osservare che cambiamenti ci sono nel passaggio degli anni e non dare per scontato così passivamente di doverli accettare è un buon punto per prendersi un po' più cura di se stessi, insomma. Nicola, quanto dovrebbe che il nostro uomo di oggi a Cuore Denari? E Nicola è molto alto, è un bel pezzo d'uomo. Che circonferenza addominale potrebbe augurarsi di avere. Io non vedo, insomma, se ha la pancia. Dovrebbe cercare di stare nettamente sotto i 100 centimetri, magari anche attorno ai 95 o sotto. Insomma, la pancia non deve aumentare. È stato un obiettivo raggiunto 2 anni fa. Diciamo che ultimamente sono tornato attorno a quella soglia, forse qualcosino sopra. No, ma non è vero. No. È vero. E a proposito di soglie, che è la parola chiave di oggi, ci sono degli ascoltatori che forse vogliono parlare di le soglie economiche. Abbiamo Michele dalla provincia di Campobasso. Che aspetta da un pochino. Michele, buongiorno. Lei che si chiama mio nipote è il nostro ascoltatore preferito di questa mattina. Devo dire che anche voi siete la mia radio preferita. Vi faccio i complimenti, perché io non guardo la televisione, cerco di leggere molto e ascolto molto la radio. Ottimo. Soprattutto la vostra, che è bella, veramente bella, ve lo dico sinceramente. No, io non volevo rattristare la trasmissione, però devo dire che io da cinquantenne vedo una differenza sostanziale. Io ho 50 anni proprio, li ho fatti quest'anno a febbraio. Uh-huh. Oltre ai cambiamenti che ha ben descritto il professore, all'allargamento della faccia, tutte queste cose qui. Anche ma io penso che ci sia un fatto oggi, diciamo, socialmente differente rispetto a 30 anni fa. Cioè 30 anni fa magari il ventenne era inquieto e il cinquantenne poteva dedicarsi più a se stesso. Io anche fino a 2-3 anni fa non ho mai pensato, diciamo, alla pensione, al fatto che il tempo passasse. Me ne accorgo perché le cose cambiano. Certo. Adesso il cinquantenne, io faccio l'agente di commercio, sono in un momento chiaramente difficile come molti miei colleghi. Sì. Perché oggi la mentalità dilagante, ed è difficile opporsi, no? Io faccio parte della quindi insomma il cambiamento, questi sono anni faticosi. I ventenni, dottore Saluini, i ventenni Hanno una maggiore facilità ad adattarsi per esempio a cambiamenti traumatici che nell'ambito della crisi ci possono stare. I cinquantenni hanno una buona capacità di prendere la vita com'è, ma fanno più fatica di fronte al cambiamento, e questo è importante anche per la salute. Un consiglio quindi per allenarsi al cambiamento, per non pagare in termini di salute, perché la rigidità produce stress, allora, e questo ha delle ricadute sulla nostra salute. Questo, è molto importante, e questo è un consiglio importantissimo per uomini e donne dai 50 in poi: l'accettazione, cioè non lottare contro il fenomeno. Per esempio, le donne che vanno in menopausa, quando lottano con l'idea, stanno molto peggio e hanno sintomi. Qualsiasi cosa ci accada, anche se non propriamente positiva, deve passare attraverso l'accettazione. A questo punto sarà meno pesante. E allora, ogni età, abbiamo capito, ha i suoi punti di forza e di debolezza, per cui torniamo ad invitare i nostri ascoltatori a raccontarcelo, ma è anche vero che, nolenti e dolenti, ad ogni svolta si deve fare un tagliando. Ai 30 ci si accendono delle spie che non vogliamo considerare. Dottoressa Luini, ci aiuti lei, tra i 30 e i 40. Le spie che si accendono riguardano fiato, muscoli e memoria. Sembra paradossale, perché uno dice a 30 anni stai benissimo. In realtà qualche piccolo cambiamento nel fiato, quindi polmoni, cuore, nelle prestazioni fisiche in quel senso, nei muscoli, nella tonicità, nella capacità di resistenza dei muscoli, e anche nella memoria, nella prontezza cerebrale, inizia a vedersi già a quel momento. Ma sono tutte cose che possiamo affrontare con l'esercizio, con lo stile di vita. Quindi fiato, muscoli e memoria si possono allenare. Conoscere che cosa possiamo fare è molto importante dai 30 in poi. Questa è l'età magica. Ma dottor Ongaro, io mi sposterei con lei dal telefonino allo scarabeo. Invitiamo ancora gli ascoltatori a schierarsi. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di riconoscersi in un'anta, non chiediamo l'età, ma se siete scarabeo, che quest'anno compie 50 anni, se siete un telefonino 40 come il mio, o 30 il banco. E dottor Ongaro, tra i 40 e i 50 anni è un'età che abbiamo anticipato particolarmente interessante, un'età particolare. Ci siamo ripresi dalla crisi degli ANTA, li stiamo apprezzando, veleggiamo verso i 50 con una maggiore sicurezza, è un'età magnifica in questo caso, ma anche in cui avvertiamo che il nostro organismo, se ben coltivato, se abbiamo fatto la giusta prevenzione, dà il meglio di sé. Non a caso è proprio tra i 40 e i 50 anni che gli astronauti vanno nell'età degli astronauti. Parmitano in cui è più giovane, però, perché mi sembra che ne abbia 37. Ma siamo lì, insomma. Dottor Ongaro, è vero? Beh, è vero, Luca Parmitano fa parte di una nuova selezione astronautica, ha abbassato di un bel po' l'età media, ma nel gruppo astronauti europei precedente diciamo che era ben oltre i 40 anni ed è molto tipico che l'astronauta voli tra i 40 e i 50 anni e anche oltre. Ci sono sia astronauti europei che ancora di più russi e americani che hanno volato in età ancora più avanzata. La ragione è un po' la stessa ragione che riguarda noi a terra, voglio dire, è un lavoro molto tecnico, come tanti lavori a terra, richiede anni di preparazione, quindi è difficile pensare a un ventenne che vola nello spazio. Certo è che quello che accade a un quarantenne che va nello spazio è che in sei mesi si gioca tanti di quei parametri di salute che ritorna come se avesse preso quasi 10 anni, quindi diciamo che quella decade che va dai 40 ai 50 che noi ci godiamo con estrema calma, l'astronauta, se non viene trattato da un punto di vista medico in modo molto preciso, rischia di bruciarsela piuttosto in fretta, soprattutto su alcuni distretti che non a caso sono gli stessi distretti che anche tra i 40 e i 50 anni a terra, insomma, rischiano di essere compromessi. E i campanelli d'allarme di cui parlavate prima, alla fine si ripercuotono tra i 40 e i 50, non sono più dei campanelli, ma sono dei veri e propri allarmi a questo punto, i muscoli che si indeboliscono moltissimo, le ossa che iniziano piano piano a diventare più fragili, il metabolismo che si spegne e rallenta e quindi i chili che aumentano. E devo dire che se è vero che alcune di queste manifestazioni poi possono anche diventare diciamo patologiche, nel caso, non so, mi viene in mente il diabete o l'ipertensione o altri fenomeni nettamente patologici, anche tra i 40 e i 50 moltissimo di questo si previene con l'esercizio fisico, con l'alimentazione corretta, che sono poi i pilastri anche del programma preventivo che si fa con gli astronauti. Pensate che gli astronauti in orbita fanno attività fisica per 2 ore al giorno tutti i giorni, quindi voglio dire, non esistono pillole magiche. Alla fine lo stile di vita anche per soggetti come gli astronauti all'interno di una stazione spaziale diventa fondamentale per garantirsi, insomma, una salute che sia il più ottimale possibile. Tu avevi portato Nespoli qualche tempo fa, Nicoletta, sì. Che pezzo d'uomo, una montagna di muscoli, incredibile. Allora, e tra l'altro credo sia ben oltre i 50, no, ma anni avrà? Nespoli ha più di 55. Ha superato i 50, assolutamente, sì. Poi tra l'altro eravamo assieme in quella puntata. C'era, ecco, hai visto, sì, che sì. Mi ricordo, mi sono fatto immortalare con una foto. Allora, veleggiamo intorno ai 50, un'altra svolta per i nostri scarabeo, un'età particolarmente delicata per le donne, si parla di menopausa, per gli uomini di andropausa, la metto tra virgolette. E a proposito di pausa, te ne dico un'altra. Andiamo a sentire. Non i mercati. Le strade. Suggerimenti per chi è in viaggio. Cuore e denari. Eccoci ritrovate ancora in diretta qua a spulciare i messaggi degli ascoltatori, anche un po' offesi perché non li gratifichiamo leggendoli, hanno anche un po' ragione, ma ce ne arrivano a decine. Bruno da Bergamo, non si arrabbi. Da un uomo che fa un complimento, poi chiedo un ringraziamento. Signor Bruno per lei cortesia. È molto carino che ci ha detto che siamo molto simpatiche e anche molto belle, e purtroppo ha ragione, non so come. Detto questo, gusto, e si è Bruno. Offeso perché non lo abbiamo ringraziato. Eccoci qua, ci cospargiamo il capo di cenere, no, e la ringraziamo. Attimo. Io no. No, io neanche. Anche un bacio a Bruno. Sì. Ecco, e un grazie, mi sembra che sia il miglior ringraziamento. Eccoci qua, posso leggere anche il messaggio di Manu, poi torniamo all'età. Sono stata a Stoccolma per 14 mesi, non ricordo di aver mai avuto bisogno di una corona svedese, ovunque, ma proprio ovunque, ho sempre utilizzato carte. Buon lavoro, bellissime amiche, e questa la volevo leggere fino in fondo. Perché c'era il bellissime, lei sì, e anche perché leggere. C'era amiche, come dire, abbiamo anche la presunzione un po' di essere le amiche dei nostri ascoltatori. Nonostante l'età. Sì, perché noi oggi non vi chiediamo l'età, vi chiediamo la decina. Ma guarda che molti ce la stanno dicendo di loro spontanea iniziativa. Vabbè, noi comunque chiediamo la decina, perché sulla decina possiamo giocare, perché giochiamo nella decina della prevenzione. E quindi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci 800 24 0024 per le soglie anagrafiche e per le soglie economiche. Essere e benessere. No, perché sono 25 minuti che digita inutilmente su quella tastiera, suppongo nel vano tentativo di prelevare denaro senza riuscirci. Ce la farà entro Natale? Per favore, cortesemente, io lo dico cortesemente, può andare un passo dietro la linea gialla e non starci sopra? Non schiacciare la schiena alla linea gialla? Non le sto chiedendo chissà che cosa, voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto, è per quello che va un passo avanti? Questo allunga questo collo a Brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto, eh? Ieri Aldo non c'era, l'abbiamo ma noi non le vogliamo oggi. Non le vogliamo più abbandonare, assolutamente, vorremmo sempre averli con noi. Insomma, questo allora, cambiamento che noi italiani siamo un po' resti a fare, quello che no, ci porta a usare il contante al posto delle carte magnetiche, anche questo è in fondo un po' una spia dell'età, è un po' come il modo in cui digitiamo il telefonino. 800 24 00 24, continuate a rimanere con noi, ma volevo chiedere alla dottoressa Luini, intanto che Nicola tra poco parlerà con gli ascoltatori che chiedono informazioni e delucidazioni sul Bancomat e quindi ne spiegherà i vantaggi, vorrei tornare con lei ai vantaggi della prevenzione in un'età come quella dei 30 anni, che è l'età del Bancomat, in cui solitamente si è più portati a vivere il presente, a non preoccuparsi della salute. Beh, questo non è molto intelligente, ecco, diciamo. C'è un'urgenza perché un po' gli anni delle malattie sono cambiati, questo è il messaggio che vogliamo mandare. I 30 anni sono anche un'età molto positiva per la diagnosi precoce, per esempio, no? La prevenzione non solo nello stile di vita ma nella diagnosi precoce, perché esistono alcuni tumori, per esempio il tumore al seno, il tumore dell'utero, che hanno un'età adesso più giovanile, quindi dai 30 anni in poi, per esempio, la donna dovrebbe sottoporsi annualmente ai controlli più opportuni per la diagnosi precoce di tumore al seno. Questo è un esempio di come dai 30 anni in poi ci si possa prendere la responsabilità della propria salute, perché si è sani e si vuole continuare a essere sani. La prevenzione dei tumori si basa anche, per esempio, su una visita alla pelle. Uomini e donne dai 30 anni in poi dovrebbero fare la mappatura dei nevi della pelle e, sulla base delle indicazioni del medico, poi ripresentarsi ai successivi controlli per verificare che non ci siano piccole lesioni che nel tempo possono diventare melanoma. Altra cosa, chi sa di avere in famiglia casi di tumore del colon, dovrebbe almeno una volta nella vita, dai 30 anni in poi, fare una colonscopia. Gli esami del sangue una volta all'anno, verificati insieme al medico di medicina generale che provvede anche alla visita, sono un toccasana, perché si accorgono subito se c'è qualcosa che non va. Quindi dai 30 anni in poi ci sono cose che possiamo fare. Per non parlare di cose da evitare, tipo il fumo di sigaretta, che dai 20, dai 30, dai 15 andrebbe sempre evitato. E lì smettere è sempre vantaggioso. Sì, è sempre vantaggioso. Diciamo che a me non piace parlare sempre di tumore, perché so che poi il livello della discussione diventa un pochino tetro. In realtà stiamo parlando di salute. La salute passa anche attraverso la prevenzione dei tumori. Ecco. A proposito, la dottoressa Luini ha scritto un libro che ho passato anche a Debora, di cui ne abbiamo anche tre copie oggi che vorremmo omaggiare ai nostri ascoltatori. Si intitola Il male dentro, ne abbiamo già parlato anche in precedenti puntate quando eravamo ancora divise, Debora. Ed è un libro che è girato, un romanzo che è scritto in un luogo di cura, in cui si parla di tumore, ma si capisce anche quanto sia nello stesso tempo importante. Ecco, affiancare a questo concetto l'idea di vita, no? Sì, io credo, quando ho scritto Il male dentro, che poi è stato pubblicato da Cairo Editore, pensavo alla vita, pensavo alla bellezza dell'amore, alla bellezza delle relazioni anche che si stabiliscono in un centro che cura tumori, quindi pensavo alla vita e non alla malattia. E noi ne parleremo insieme a Books City il 21. Alle ore 18 all'Oiero, in via Ripamonti 435, con Nicoletta. E Debora sarà con noi, ci auguriamo. Cuore e denari. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Allora, 30 anni fa questo gruppo leggendario, gli ABBA, si scioglieva, una tragedia per la musica, però non avranno problemi di bancomat e contanti i quattro componenti di questo straordinario, appunto, gruppo musicale, perché figuriamoci con i diritti che hanno, Nicoletta. E poi, dottor Ungaro, come se la stanno passando con il suo occhio clinico, secondo lei? Devo dire che gli ho persi un po' di vista. Frida è sempre una gran bella donna, gli altri me li sono persi un po' di vista io. vabbè. Insieme al dottor Ungaro continueremo a parlare, a dare voce alle vostre telefonate per capire come ad esempio l'alimentazione, che me lo lasci dire dottor Ongaro, è un po' il suo chiodo fisso: mangia che ti passa, mangia che ti magrisci, mangiare ti fa bella. L'alimentazione ha un ruolo straordinario per la nostra prevenzione, per il nostro benessere. Dottor Ongaro, abbiamo accennato alla menopausa e all'andropausa tra virgolette, vogliamo dare subito due indicazioni molto mirate per i nostri ascoltatori che si trovano ad affrontare questa età di passaggio? Beh, di indicazioni ce ne sarebbero tante. La prima indicazione che va data è che se ci sono delle problematiche più pesanti bisogna discuterne con il proprio medico, perché ci sono delle terapie mirate per queste diverse fasi della vita che vanno prese in considerazione. Ma diciamo che dal mio punto di vista, in termini generali, è bene anche non sottovalutare un approccio più generale alla salute in queste occasioni, cioè non concentrarsi soltanto sui sintomi della menopausa o, nel caso ci fosse, dell'andropausa, ma lavorare sul contorno. Il metabolismo è fondamentale, il mantenimento del peso corretto è fondamentale, l'attività fisica è veramente una terapia a 360 gradi anche per queste fasi della vita e anche per problematiche specifiche di queste fasi, come per esempio l'osteoporosi, che colpisce tante donne dopo la menopausa. Quindi la strategia deve essere per me sempre la stessa, premesso che poi quegli esami di screening di cui si parlava prima hanno ovviamente una funzione fondamentale. Ci sono tre pilastri della prevenzione che rimangono fondamentalmente sempre questi: il cibo, l'esercizio fisico e il rilassamento. E nota che appunto il mio chiodo fisso non ho detto la dieta, ho detto il cibo, cioè imparare ad appropriarsi nuovamente delle capacità curative che questo straordinario elemento ha nel nostro organismo, associarlo a un'attività fisica mirata e regolare e a delle tecniche di rilassamento che tanto contribuiscono a ridurre anche stati di tensioni e fenomeni psicosomatici che poi rendono quei sintomi anche della menopausa e dell'andropausa più gravi. Poi ci sono anche delle integrazioni mirate che possono essere fatte, mi viene in mente la vitamina D, il calcio, la vitamina K2 per le ossa nelle donne appunto in menopausa. Ma insomma è una strategia complessiva ed è un momento da cogliere positivamente, con accettazione, giustamente come è stato detto prima, per non preoccuparsi e agitarsi, ma iniziare ad occuparsi di se stessi in maniera proattiva. La soglia della quale invece noi parliamo questa mattina dal punto di vista dei denari è quella dei 30 anni, perché, come abbiamo raccontato all'inizio del programma, 30 anni fa nasceva il circuito Bancomat nel nostro paese, quindi da 30 anni gli italiani hanno preso, 30 anni fa, cominciavano a prendere confidenza con la moneta elettronica, con lo strumento elettronico di pagamento, con tutti i limiti però, perché, come abbiamo raccontato all'inizio, molti hanno paura ad utilizzarla, perché gli italiani dicono ci perdiamo i codici e quindi abbiamo paura che qualcuno possa clonare anche la nostra carta. L'altro problema grande invece, Nicola Borzi, è quello delle commissioni che i commercianti fanno pagare. In molti ci stanno testimoniando questo dal punto di vista del consumatore, ma anche dal punto di vista dello stesso commerciante. Alcuni ci invitano a fare i conti, aprite voi una tabaccheria, ci dicono, e poi vediamo se vi risulta conveniente far utilizzare la carta bancomat o la carta di credito ai clienti. Che ne pensi? Ma posto che carta di credito e bancomat sono due cose assolutamente diverse, perché la carta di credito, lo dice la parola stessa, apre un credito, il bancomat è una carta di debito. È ovvio che per l'operatore economico, il commerciante che utilizza un POS, ci sono delle commissioni, ma è anche quasi impensabile che un istituto di credito metta a disposizione un terminale, un POS, senza che questo paghi nulla. Io faccio il caso, ad esempio, visto che ne sono un utilizzatore del Telepass per l'auto, io pago un canone mensile per il Telepass e devo dire che lo considero assolutamente indispensabile, perché tutte le volte mi evita di fare delle code pazzesche al casello e mi consente di viaggiare in assoluta tranquillità, oltre ad avere servizi aggiuntivi, penso ai milanesi che lo utilizzano per pagare l'area C. Credo che ci sono degli strumenti che garantiscano anche magari una possibilità in più per l'operatore commerciale, che è quella di intercettare fasce di clienti che magari escono di casa senza contante, come a me capita spessissimo, perché io faccio parte di quella categoria di italiani che hanno un rapporto molto più frequente con il bancomat che non con il contante in sé. Credo che questa è una cosa che accomuna anche tutti gli ospiti che abbiamo qui stamattina in studio. Parliamo di soglie questa mattina, ce n'è un'altra molto importante. Allora, io vado in un negozio, ammettiamo che mi servano contemporaneamente una lavatrice e un frigorifero e devo fare una spesa di 1200 euro. E ammettiamo appunto che mi presento lì con un bel pacchetto di contanti al commerciante e non posso mica pagare tutto questo importo? No, non si può pagare assolutamente nulla sopra la soglia che è stata stabilita dal decreto Salva Italia del 2011, perché dal 6 dicembre 2011, in base a questo decreto, il tetto all'utilizzo del contante è fissato a 999,99 euro. altre soglie di questo tipo sempre fisse a 999,99 centesimi riguardano gli assegni circolari, gli assegni bancari e postali, i vaglia a cambiare i postali e soprattutto una cosa che bisogna ricordare, perché quando la si dimentica scattano sanzioni veramente pesanti, minimo 3.000 euro, il trasferimento di titoli al portatore che hanno un saldo superiore a 999,99 euro deve essere comunicato per iscritto entro i 30 giorni, altrimenti scatta la sanzione. Così come il 31 marzo 2012 scattava la sanzione per tutti coloro che avevano libretti postali e bancari al portatore con saldi superiori a 999,99 euro e non li hanno ridotti entro quella soglia. E molti ascoltatori purtroppo sono arrivati a plus 24 e adesso arrivano anche al nuovo inserto Risparmio Famiglia del lunedì le segnalazioni di coloro che si trovano a pagare delle multe molto salate per non avere ricondotto sotto la soglia limite il proprio titolo al portatore. Se ci penso quante puntate di Salvadanaio ho fatto su questo argomento per comunicarlo a tutti, ma non siamo riusciti a raggiungere appunto tutta la platea degli interessati. Adesso un quarto d'ora tutto dedicato tutto agli ascoltatori. Sì. Tutto sulle soglie economiche, anagrafiche, bancomat, commissioni, grande fratello, esami, metabolismo che si rallenta. A chi regaliamo i libri? La dottoressa Luini è qua, li ha scritti e ecco, lei li dona. Sceglie lei l'ascoltatore. Lasciamoci che le... ispirare. Lasciatevi ispirare, tra parentesi, sarebbe poi carino se riusciamo a leggiamo i luoghi di ispirazione. Intanto continuate, allora 800240024, Marco ci chiama da Torino. Buongiorno Marco. È bello no, questo tutti. Tema. A quale soglia lei si riferisce, anagrafico o economica? Io volevo fare una domanda sul metabolismo. Ecco, quindi... Allora diciamo anagrafica. Perché... Anagrafica, ok. Io ho 30 anni e niente, ho verificato sulla mia pelle come il mio metabolismo, credo ignorantemente perché non sono un medico, si è rallentato drasticamente da quando ne avevo 20, perché quando ne avevo 20 bastavano 2-3 giorni di... Di dieta per rimettersi in forma. Esatto. Marco, sapesse a 44? Sapesse a 44 quanto ne servono? E tornavo nella 44. Adesso, con 2 giorni di dieta, di digiuno, forse li prendo. Sì. A proposito digiuno. Sì, cioè il digiuno buono e il digiuno quello che non si deve fare. Sì. Insomma, il metabolismo a un certo punto sembra che si addormenti. A volte sviene del tutto. Mia. Come mai? Una gli tragedia. Anni non aiutano. Ma gli anni non aiutano e ritorno a sottolineare una cosa che abbiamo detto prima che è molto importante ed è il mantenimento della massa muscolare adeguata, perché il metabolismo basale, che è quello che ci permette di consumare un numero di calorie elevato stando a riposo nelle 24 ore, è la base diciamo del metabolismo, dipende direttamente da quanti muscoli io ho, quindi in questo caso, soprattutto perché si tratta di un trentenne, lo invito a prendere in considerazione, più che anche ovviamente curare l'alimentazione, ma prendere in considerazione seriamente di fare un'attività fisica regolare che tonifichi anche i muscoli. Marco, devi farti i muscoli, insomma, lavora un po'. Esatto. Però tra l'altro, Marco è ancora in linea? Un trentenne, volevo sapere che facilità avesse con l'anima. È scappato a fare gli addominali. Nicola, tu li fai? No, io non faccio gli addominali, però io ho una mia ricetta, io cammino molto. Anch'io. Amo camminare e visto che adesso vivo in una casa su 3 livelli, faccio molte scale. Eccolo là. Sì. Io ho 43 anni e ho un contapassi perché ho una quota minima sotto la quale non devo andare. Pensavo raccogliesse le foglie in giardino, perché anche di questo abbiamo parlato. Beh, è una buona idea. Dicono che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consigli di non fare meno di 10.000 passi al giorno. 10.000 sono tanti, devo dire. No, io ho messo 12.000 come quota minima ogni giorno. Sono parecchi chilometri. Ne raggiunge? Lo so, ce la fa? Sì, ce la sì, fa? Sì. Benissimo, devo trovarlo questo contapassi. Te lo regalo io. Il dottor Ronga. Io non sperare che ti regali una carta di credito perché te lo scordi. Te lo scordi. Ci pensavo. Da chi andiamo? Scegli quello che ti piace. Ritorniamo alla soglia economica. Aspetta, che mi sono persa le telefonate. C'era un ascoltatore. Alberto da Varese. Alberto, eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci. Allora? Sentiamo allora, benissimo. Diciamo che tutti stiamo con queste carte di credito. Diamo alle banche il potere superiore, prima cosa. Seconda cosa, bello l'esempio del telepass che ha fatto il dottore prima, ma non è che le code si passano perché si ha telepass. Altro che. Ma guardi, lei allora, siccome lei probabilmente non si coda faccia al casello, non parlo di incidenti o di lavori stradali, ovviamente. La coda al casello. Fanno le code al casello quando ci sono i casini. Va bene, Alberto, posso chiederle di arrivare alla domanda? Perché sì, abbiamo un centralino rovente. Grazie, Alberto. Ma più che una domanda, vorrei dire una cosa. C'è un, si sente tutto un ritorno. Vabbè. Una persona che ha avuto un problema 4 anni fa, quando è iniziata la crisi, in banca, sì, non ha pagato un finanziamento, e poi è tornato a pagarlo, l'ha sospeso 2 o 3 mesi, è segnalato. Sì. In banca non gli danno né carta di credito, né conto corrente, né bancomat. Può comprarle solo un'imposta prepagato. Ma quella gente lì cosa, la uccidiamo tutta? No, no, guardi, Alberto, mi permetta di risponderle. Allora, innanzitutto le segnalazioni alle centrali alle centrali rischi sono tutelate da delle norme precise di comportamento degli operatori che devono essere seguite e che stabilisce l'autorità garante per la privacy. In secondo luogo, anche i protestati, l'abbiamo scritto sull'ultimo numero di Plus 24, anche coloro che hanno avuto problemi con finanziamenti che non sono stati diciamo onorati o quant'altro, possono, se ricorrono i requisiti, aprire in banca o in posta il cosiddetto conto di base, che è in 4 tipologie e che tutti gli operatori devono offrire. Quindi anche coloro che hanno avuto questo genere di problemi possono aprire questo genere di conti. E quindi ci mancherebbe che vogliamo uccidere o... Quanto al tema dei controlli, faccio presente che tutta la nostra vita è assolutamente sorvegliata e che molto spesso noi stessi offriamo gratuitamente a enormi centrali di immagazzinamento e di gestione dei dati, cosiddetti big data, informazioni sulla nostra vita privata. Penso ai social network, penso all'utilizzo di molti altri strumenti che non hanno nulla a che vedere col mondo bancario. Molto bene, con questa lezioncina. Vedevo la dottoressa Luini che si illuminava. E annuiva, veramente. Beh, sì, io sono segnalata perché qualcuno mi ha rubato la carta d'identità e ha chiesto un finanziamento con la mia identità. È stato dimostrato che io così non c'entro niente, c'è qualcuno che ha fatto questa cosa con il mio documento. Ma non può ripulire il suo profilo creditizio? Mi ha mai cancellato, nonostante la richiesta. Ho fatto richiesta. E ho problemi perfino perché questa persona... Allora la invito a scrivere a plus@ilsole24ore.com. La invito a scrivere a plus@ilsole24ore.com segnalando esattamente tutti i dati di questa vicenda e noi per lei, come settimanale di risparmio e finanza del Sole 24 Ore, interrogheremo l'intermediario e chiederemo perché non si è attivato per chiudere questa vicenda. Grazie. Ma guarda che mi date una tranquillità. Ma guarda, lo vedi come noi risolviamo i problemi? Mentre tu mi dai tutte le diete e i sacrifici e la ginnastica, lei, per favore, ecco, e le bacche di goji, dottor Ongaro, che di cui ormai sono diventata una consumatrice, una testimonia. Smodata. Anche perché ormai sa a memoria i suoi libri. Ma dottor Ongaro, come l'abbiamo trattata la Deborina? Ma io insomma cerchiamo di darle dei consigli fattibili. Il girovita è decente, per fortuna. No, perché è proprio la tipica persona che dice: mi mettete a dieta, mi fate attività fisica. E invece noi vi diamo gusto alla vita. Andiamo a Alberto che ci chiama da Novara. Però io col quel metabolismo che si rallenta ce l'ho un po' su. Va bene, andiamo Alberto, a Alberto. Alberto? È svenuto. Pronto, buongiorno. Alberto. Buongiorno, ci dica. Io oggi devo spendere 1.600 euro in un grande magazzino di elettrodomestici e per motivi che vi risparmio uso molto i contanti. Sì. Io spenderò 900 euro tra 20 minuti e poi spenderò 700 euro verso sera. Così quindi lei dice di bypassare le normative antiriciclaggio. Le faccio presente che questa operazione è ovviamente fattibile illegale dal punto di vista tecnico, ma può essere considerata illegale perché viene considerata operazione frazionata e coloro che effettuano come controparte parte sua questa operazione possono segnalarla alla unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Lui pensa di bypassare perché rischia di cadere, cadere sotto dei controlli addirittura più accurati, in quanto questo genere di operazioni fanno sempre sospettare il riciclaggio di somme che provengono o da nero o da altro tipo di attività finanziarie, molto spesso illegali. Quindi direi che non è una buona idea. Ecco Alberto, veda un po' lei se vuole prendersi questo rischio. Possiamo andare da un altro Alberto che ci chiama da Novara. Buongiorno. Informissima da quello che dice lui, tra l'altro, forma strepitosa. Alberto. Buongiorno. Il mio fiore all'occhiello. Vada Alberto. Complimenti a tutti. Allora, brevemente, io ho una fortuna geneticamente. È la genetica che mi ha dato questa fortuna, perché il mio papà, che è mancato 2 anni fa, è arrivato a 87 anni con tutti i capelli e in forma più che mai. Ma aspetti Alberto, c'è un ascoltatore che ci raccontava che suo papà ha 101 anni e utilizza regolarmente il bancomat con grande facilità. Chiusa parentesi, e anche lì ci sarebbe da discutere parecchio su questa storia. Comunque io da quando ho 25 anni sono sempre nel peso forma dei 65-68 kg. Ho fatto anche degli abusi, sono passato dalla 48 alla 50, ma sono tornato indietro, adesso sono sulla 50 e mangio bene, soprattutto è stata mia figlia che mi ha portato ad una buona sana alimentazione. Prendo quindi gli omega 3, prendo la lecitina di soia e faccio... Ma allora venga lei a fare l'esperto, Alberto, e che cosa le dobbiamo dire? Meraviglioso, il DNA aiuta tantissimo, ma lui si aiuta anche con lo stile di vita, quindi complimenti, bravissimo. Dottor Ongaro, aiutati che il DNA ti aiuta. Senza dubbio, diciamo che il DNA è una base, poi come lo sviluppiamo, in che direzione lo spingiamo dipende dalle scelte che facciamo. In questo caso s'abbina una certa base genetica fortunata con però anche uno stile di vita corretto. Non puntiamo solo sul DNA, perché il DNA o meglio la propensione genetica la possiamo anche, come dire, spegnere e uccidere a forza di stili di vita sbagliati, quindi questo è un abbinamento invece corretto. Allora, non potevamo farci mancare tra i nostri ascoltatori responsabile dell'ABBA Fans Club. Dai, vai. Che ha detto che gli ABBA stanno benissimo e hanno rifiutato l'offerta da $1 miliardo per una serie di concerti insieme per fare la reunion. È segno che la loro, come dire, oltre 50 anni, perché credo che tutti siano ben oltre questa soglia, stanno benissimo, non hanno bisogno di rimpinguare le risorse finanziarie. Poi anche perché con il bancomat hanno loro, ma non saranno neanche di che colore ce l'hanno questi qua, figo. Cioè, avranno soldi che escono da ogni parte delle loro stanze e delle loro abitazioni. Allora, iniziamo i saluti. Non so, volevo affrontare il tema dell'abolizione dei contanti anche per la lotta all'evasione fiscale. Un'altra precisazione, magari Nicola, vale la pena farla. Una discussione che è divampata anche recentemente di nuovo in ambito politico. Basta ricordare che in Italia l'utilizzo dei contanti è regolato per legge ed è stato ridotto nel tempo da 12.000 a 5.000 e poi a 2.500, infine a 999,99 euro, come abbiamo detto, non più di 20 mesi fa. Diciamo anche una cosa per chiudere, che le carte bancomat in Italia sono le più sicure del mondo. Secondo i dati del Ministero del Tesoro, truffe e frodi sono assolutamente più basse che non in altri paesi. Dopodiché è chiaro che se qualcuno conserva nel portafoglio il bancomat codice, con sopra il codice... Che guarda me. Comunque questo futuro scarabeo è in ottima forma. È in ottima forma, Nicola, è un'altra da chiamare gentili, spesso. Troppo gentile. Un altro da chiamare spesso. Dobbiamo salutarci. Sì, grazie a tutti. Dottor Ongaro, un bacio. Buona giornata. Buona giornata. Voi, grazie. Buona giornata. Buongiorno. Anche alla dottoressa Luini. Torni anche lei a trovare. Noi abbiamo regalato i libri. Scegliamo noi in privato gli ascoltatori a cui regalarli. A domani, Nicoletta. A domani. Buona giornata. Cuore e denari.